in questo momento la situazione è che la celler è riuscita a entrare da uno degli appartamenti che danno su via Santo Stefano e sono in una prima parte del piazzale di Labà. Il piazzale, come tutte le persone sanno, però è composto da tante aree e due cancelli, quindi in questo momento c'è un gruppo di compagni e di compagne che stanno resistendo in una di queste parti adiacente al cancello, dando fuoco della paglia da tutte le entrate in modo che la celler non possa avanzare. Intanto il presidio continua a diventare più numeroso e rimane qui davanti al cancello. Il cancello principale, insomma, quello di via Orfeo 46. Esattamente. Ecco, non ci sono ancora stati contatti allora con le forze dell'ordine in questo momento? No, non ancora. La via è completamente chiusa dall'inizio della caserma alla fine. Ci sono più reparti che appunto sono schierati e ne impediscono sia l'ingresso che l'uscita. Ci sono tra l'altro diverse persone che in entrambi i lati vorrebbero entrare ma sono bloccate al di fuori, quindi in questo momento diciamo così che i presidi sono un po' da tutte le parti, in tutte le angolature della caserma, all'interno della caserma e fuori dal cancello della caserma.